Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Dopo 13 edizioni, Solar Expo, la fiera di Verona dedicata al mondo dell'energia solare, anche una delle prime fiere in assoluto al mondo dedicata a questo tema, cambia pelle, si trasferisce da Verona a Milano e cambia proprio di impostazione, di contenuti. Si chiamerà The Innovation Cloud, la nuvola dell'innovazione. Difficile, insomma, non ravvisare in questa decisione un segno dei tempi. Per esempio, è impossibile non osservare che questo accade contemporaneamente alla fine degli incentivi al fotovoltaico, che in passato sono stati eccessivi, ormai lo riconoscono un po' tutti, e però ora andranno totalmente a zero. Questo avviene in un momento di crisi profonda per il settore, crisi che però non è solo italiana e alla quale comunque molte imprese stanno tentando di reagire. Di tutto questo parliamo con Luca Zingale, direttore scientifico prima di Solar Expo e ora di Innovation Cloud. Buonasera Zingale. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, possiamo dire che per quanto riguarda il solare fotovoltaico si chiude una fase, se ne apre un'altra, fine dell'era dei brufoli dell'adolescenza, si entra nell'età adulta. Sì, è proprio un po' così, però mi lasci prima rassicurare i nostri affezionati visitatori che il nome Solar Expo non scompare, rimane, viene ricompreso in un cappello più grande che, come diceva giustamente è di Innovation Cloud, in quanto affrontiamo il tema dell'ibridazione tecnologica, proprio perché molte imprese hanno bisogno di cercare una prospettiva di mercato anche fuori dal campo fotovoltaico stretto, stanno guardando tecnologie affini, quindi le altre rinnovabili elettriche, ma soprattutto al mondo dell'efficienza, questo in una logica di impianti più mirati all'autoconsumo dell'edificio, sia domestico che commerciale o industriale, e quindi con il controllo domotico dei consumi elettrici. Fra l'altro si stanno affacciando tecnologie di accumulo, di storage molto interessanti che consentiranno di fare grandi passi in avanti nella direzione dell'autoconsumo. C'è la novità della mobilità elettrica e ibrida plug-in, ormai con modelli in arrivo anche commerciali. Insomma, ecco qui la nuvola, tante tecnologie che si intersecano fra di loro, che hanno relazioni virtuose, sinergiche. Ecco, in qualche modo mi ha spiegato come state reagendo a questo momento di passaggio. Mi chiedo invece come reagisce l'industria italiana e in che situazione versa attualmente. Sì, adesso la situazione è molto critica per i produttori, manifatturieri di celle e di moduli, e di fatto credo di poter dire che siano quasi tutti in cassa integrazione. Questo obiettivamente colpisce, stride, perché parliamo di un settore della green economy che è quella che avrebbe dovuto portarci fuori dalle secche, diciamo, della old economy. Però obiettivamente si tratta di una crisi che non investe la sola industria italiana, ma anche la potentissima industria tedesca, che era la numero uno al mondo, la potentissima industria giapponese. È quindi una crisi di assestamento. Giapponese o cinese? Giapponese, nel senso che i cinesi stanno diventando il primo mercato, però dici bene, perché in effetti anche in Cina addirittura si pensa che il governo punterà su una pattuglia di poche grandi, una dozzina di grandi imprese che hanno la taglia produttiva necessaria a reggere la sfida globale, e lascerà andare, per così dire, i player industriali più piccoli e più deboli. Quindi si assistono a liquidazioni, fallimenti un po' dappertutto. C'è proprio un problema di sovraccapacità di produzione. Proprio così, sì, circa del 50%. Quindi molto significativo, insomma. Assolutamente. Tutti hanno investito a partire dal 2008-2009, partendo dall'upstream, come si dice, quindi proprio dai lingotti di silicio, dalla produzione del silicio di grado solare fino alla produzione dei moduli, e in occasione del rallentamento della domanda mondiale è venuta a galla. Ma questo avviene in altri settori, c'è sovraccapacità nella raffinazione di benzina, c'è sovraccapacità nella produzione termoelettrica da gas. Recentemente è venuto fuori che c'è anche nella produzione di LED, tra l'altro, per esempio, pochi giorni fa. Ecco, ma diciamo, restando al fotovoltaico, diciamo, questo momento difficile, questa crisi del settore fotovoltaico è di tipo strutturale o congiunturale? Direi che sia assolutamente congiunturale, su questo non c'è dubbio. L'energia solare è una delle tecnologie che marcheranno la storia economica e industriale del XXI secolo. Questo lo dicono fonti per così dire ultra neutrali, come le banche svizzere, faccio per dire, quindi non parliamo di fonti ambientaliste. Questo perché il fotovoltaico è una tecnologia terribilmente versatile, scalabile, come dicono i tecnologi. Cioè vuol dire che se io faccio un impianto da un kilowatt o da un megawatt, la sua efficienza è sempre quella, mentre se faccio una centrale a gas non è così, no? Se la faccio piccola diventa sempre meno efficiente. E al di sotto di un certo livello di scala non è proprio possibile andare con le tecnologie. Certo, certo. Il fotovoltaico può essere impiegato per un grande parco connesso alla rete elettrica per la generazione di potenza, fino a un modulo da 4 watt per illuminare una capanna. Certo. In un paese che non ha accesso all'elettricità. Ecco, e non dici a caso questa cosa, perché forse è proprio lì, in quella diciamo metà del mondo meno sviluppata, che il fotovoltaico potrebbe trovare grandi opportunità di sviluppo. Sì. C'è in prima battuta, ci sono i paesi emergenti, i BRICS, la Cina diventerà il primo mercato al mondo, ha dei piani ambiziosissimi, 50.000 megawatt di solare al 2020, l'India ha avuto blackout che hanno messo in ginocchio 600 milioni di persone, quindi sta guardando fortemente al solare, e poi ci sono tutti gli altri paesi fortemente emergenti, in forte crescita, la Turchia, il Messico, le Filippine, l'Indonesia, il Sudafrica, e quindi ci sono questi grandi mercati che si spalancano, e poi c'è quel 1.600.000.000 di persone, un abitante su 4 nel pianeta, che non ha proprio accesso all'elettricità. Certo. E lì siamo sicuri che, così come questi paesi hanno saltato la fase della telefonia fissa, certo, accedendo subito alla telefonia mobile, che passeranno alla generazione distribuita, e una generazione distribuita anche nel micro, come può fare il fotovoltaico, non c'è nessuna fonte né sostanzialmente fonte, né non c'è che può farlo, e quindi diciamo immaginiamo anche una rete elettrica che nasce al contrario, diciamo, no? In questi paesi, quindi una rete elettrica che nasce a macchia di leopardo, che poi si ricongiunge fino proprio a formare così una rete magari elettrica nazionale. Sì. Grazie Luca Zingale. Grazie a voi. È tutto, a domani.